con Vittorio Antonacci per parlare del suo documentario Atto di Fede che sarà presentato a Roma allo spazio Apollo 11 mercoledì 13 febbraio 2019. Vittorio, ben trovato. Buongiorno a tutti, ore 21, Ore ci vediamo. 21, alla tua presenza. Certo. Ce lo presenti? È un trittico sui lavoratori itineranti delle feste religiose. È una sorta di indagine sull'entusiasmo che c'è attorno all'attesa delle feste religiose. Ed è boh, un atto di fede anche il nostro, che abbiamo fatto questo documentario, partito 3 anni fa. Inizio in capitoli, quindi abbiamo affrontato situazioni ben diverse, dalle bande da giro, quindi abbiamo dormito con i bandisti nelle scuole, abbiamo accompagnato la Madonna nelle case dei fedeli, abbiamo seguito un Madonnaro per le vie della Basilicata, quindi ci ha fatto vedere mondi diversi questo documentario, ed è stato entusiasmante. Com'è partito il progetto? Ma credo che questo progetto nasce da un po' dall'infanzia, quando andavo io alla festa del paese a vedere la banda che suonava. E incuriosito sono andato a scoprire che dormivano nelle scuole elementari, che facevano una vita veramente sacrificante questi bambini. Però portavano la gioia alla festa, quindi il progetto nasce da questo piccolo elemento. Poi abbiamo realizzato un primo cortometraggio che era Come sopravvivere alla banda, che è adesso più o meno la parte del documentario. E da lì abbiamo sentito la necessità di approfondire, quindi di andare oltre al gruppo. Abbiamo cercato l'iconografia religiosa che comunque lavora in qualche modo nelle feste religiose. Quindi parte tutto da lì, secondo me. In quali luoghi siete stati e quanto tempo vi ha richiesto il lavoro? Allora ci ha richiesto 3 anni, naturalmente non sono stati 3 anni consecutivi di lavorazione, abbiamo dovuto smettere, continuare, essendo legati poi alle feste religiose, quindi eravamo anche vincolati dalle date. E abbiamo girato soprattutto in Puglia e Basilicata, quindi alcune feste religiose in Puglia, Cassano, Palagianello, alcune feste del Salento. E poi in Basilicata siamo stati a San Rocco, a Tolpe, un paesino incredibile della Basilicata, arroccato su una collina, posti Che sconosciuti. impressioni generali ne hai ricavato? Perché al di là di Dio, ci tengo a precisare che in questo documentario noi parliamo di fede, ma raccontiamo anche l'assenza di Dio, con la completa assenza di Dio. La gente ha bisogno di entusiasmo per vivere, e quindi cioè, quando una cosa va fatta con tutto se stessi. Noi qui vediamo gente che fa cose, che può essere musica, può essere arte su asfalto, o può essere semplicemente ornare una casa, all'interno di una casa, comunque. Se sei rapito dall'entusiasmo e le cose le fai al di là della capacità di prevederle o di vederle, è tutta un'altra cosa. E qual è la realtà di questi paesi della Puglia e della Basilicata, soprattutto a livello giovanile? Sono realtà complicate, questi paesi si svuotano. L'Italia è come un barcone, quindi tutti i piccoli centri si svuotano, si spostano tutti sulle coste, nelle città principali. E quindi i giovani per assurdo mancano, ma sono presenti durante le feste, perché la festa, essendo comunque qualcosa di importante, si tende a non perdersela. E quindi ci sono tutti fuori sede che hanno la curiosità e comunque un distacco verso la festa. E poi ci sono i folgorati, che sono quelli del paese, che rimangono nel paese, che devono assolutamente portare la Madonna, che devono assolutamente essere partecipi perché travolti da questo entusiasmo. Vittorio, che percorso sta facendo il vostro documentario? Il documentario è stato al Festival di Torino in concorso nella sezione Doc It. E questa è fondamentalmente la seconda proiezione che facciamo in pubblico. E dopo questa proiezione inizierà la distribuzione del documentario attraverso Premiere Film, che lo spargerà in tutto il mondo, spero. Cioè, l'obiettivo è farlo vedere a chi è completamente lontano da questi piani, che sono i cinesi, che non hanno proprio idea di come possa funzionare una festa patronale. Sarebbe curioso farlo vedere a chi non conosce proprio questa realtà. Ecco, proprio per saperne di più ci lasci tutti i riferimenti internet per scoprire qualcosa di più sul documentario e sulle date. Certo, allora, la pagina di Instagram e Facebook è Atto di Fede Doc, underscore Doc. Perfetto. Poi secondo me la gente può telefonarmi o scrivermi, io sono a disposizione per rispondere a tutte le curiosità sul documentario, perché ci sono così tanti aneddoti dietro che dopo averlo visto si può veramente parlare per ore. E poi sicuramente invito alle proiezioni che saranno fatte nel paese dove abbiamo girato gran parte del documentario, che è San Michele Salentino. Faremo due proiezioni, una a Palagiavello e una a San Michele Salentino il 22 e il 23 marzo. Benissimo. E allora intanto ricordiamo l'appuntamento a Roma, allo Spazio Apollo 11, mercoledì 13 febbraio 2019, con Atto di Fede, alla presenza del regista Vittorio Antonacci. Vittorio, un abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci presto. Un abbraccio a voi e grazie mille. Buona continuazione.